30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Con Avatar, James Cameron affonda l'altra sua creatura mito, il Titanic. Il colossal di fantascienza in 3D ha spodestato la saga del transatlantico al box office internazionale. Costato circa 240 milioni di dollari, in 6 settimane di programmazione il film ha venduto 1 miliardo e 841 milioni di dollari in biglietti. Avatar è un successo planetario, capace di vendere per oltre 100 milioni di dollari in un solo fine settimana in paesi diversi come la Francia, la Cina, la Russia, la Germania e la Gran Bretagna. Ancora buonasera e benvenuti da Gigi Donelli a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Noi normalmente non parliamo di film, come sapete abbiamo programmi interamente dedicati, colleghi che approfondiscono queste tematiche. Ci sono però dei momenti in cui, come dire, un risultato artistico, una pellicola, un film trascendono di fatto quello che è l'obiettivo primario e prioritario che può essere appunto di un racconto cinematografico. Bene, Avatar è un caso esemplare in questo senso, perché ci dà l'opportunità di raccontare anche una trasformazione, una storia, una storia industriale di trasformazione tra appunto l'arte, la tecnologia e naturalmente il grande e voluto mondo digitale. Ci aiuta a farlo questa sera con noi, che abbiamo raggiunto nella lontana Nuova Zelanda, Sebastian Silvan, che è il direttore della ricerca e sviluppo di WITA. WITA è la società, che di fatto realizza gli effetti speciali, e non solo per Avatar, ma sicuramente è quella che vedete nei titoli, nei lunghissimi titoli di coda di Avatar in questi giorni nei cinema. Innanzitutto, Sebastian Silvan, grazie di essere con noi, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, insomma, Avatar è un successo planetario, dicevamo, in cui la realtà e la fantasia si confondono completamente. Chi l'ha visto ne è consapevole, e quindi abbiamo sentito, i dati sono molti. Ci sono veramente dei momenti in cui è difficile capire dove è il mondo reale e dove è l'immaginario in questa pellicola. Perché è così difficile? Ma in realtà in gran parte perché è tutto immaginario, e questo è un grande credito alla creatività di James Cameron, che ha non solo sognato 13 anni fa, quando la tecnologia non era per niente pronta a realizzare un progetto di questo genere, ma ha anche creduto e realizzato nel tempo, spingendo ovviamente non solo la tecnologia e quello che è possibile, ma anche tutti noi, tutti quello che probabilmente chiunque che sia stato coinvolto nel progetto credeva fosse possibile, e lo ha spinto proprio per realizzare quella che era la sua visione creativa. Avatar, come la maggior parte delle pellicole, è uno sforzo creativo collaborativo che coinvolge moltissime persone, in questo caso centinaia. Diciamo che in questo caso in particolare lo sforzo creativo è stato notevole, proprio perché c'era una visione da realizzare che non era mai stata realizzata prima. Ecco, facciamo dei numeri. Si parla di 900 persone intorno a questo progetto per la sola parte, si fa per dire sola, visto che appunto siamo in un campione degli effetti speciali, dicevo, per la sola parte della costruzione degli effetti speciali, e riuniti nella lontana Nuova Zelanda. Perché allora un gruppo così importante? E perché in Nuova Zelanda? Ma sicuramente 900 persone, tra l'altro solo a WETA, mentre altre società hanno fatto dei pezzi più piccoli, diciamo, degli effetti speciali, per cui probabilmente si va sicuramente oltre il migliaio di persone coinvolte nei visual effects, diciamo. Riunite a WETA perché WETA ha, diciamo, saputo portare la tecnologia ad essere lo strumento di realizzazione della visione creativa, appunto. WETA è stata costruita intorno alla visione di Peter Jackson, perché è intorno, diciamo, al progetto del Signore degli Anelli, è cresciuta ed è diventata quello che è oggi. E proprio questa crescita, diciamo, organica intorno a un regista ha permesso di calibrare e di portare tutto quello che è la strumentazione e i processi anche di creazione degli effetti intorno alla realizzazione di una visione creativa. Il servizio che WETA ha offerto a James Cameron, e che probabilmente lo ha attratto in questa direzione, era proprio quello di avere tutta la potenza di calcolo, ma anche tutta la potenza creativa di Weta al servizio di un film e al servizio della, della visione creativa. Ecco, perché Nuova Zelanda, un luogo così remoto, anche lontano dai, diciamo, dai centri consolidati del cinema, almeno da quelli che erano i centri consolidati del cinema? Ma in Nuova Zelanda perché sicuramente questa è Weta è una struttura che è stata costruita da Peter Jackson e da Richard Taylor intorno a quello che era un loro sogno. Loro sono nati qui, sono cresciuti qui e hanno voluto, anche quando hanno raggiunto un successo, portare qui le loro operazioni. Hanno saputo creare intorno a questo tutto un sistema che non è soltanto Weta, ma che è tutto un sistema di imprese che gravitano intorno a Weta e alle produzioni di Peter Jackson, e hanno poi saputo attrarre, sottolineando particolarmente quelle che erano le potenzialità del sistema cinema in Nuova Zelanda, hanno saputo attrarre grosse produzioni hollywoodiane, appunto portando non solo la potenza di calcolo, ma anche quella che è l'expertise e la creatività al servizio delle varie produzioni che sono poi venute qui. Sei Jake Sully? Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo. Sono diventato un marine per il lavoro duro. Mi sono detto che potevo superare tutti i test che un uomo può superare. Io sempre. Jack Sully è il protagonista di questa avventura su una lontana luna esterna al sistema solare, appunto su Pandora. L'anno è il 2154. La vicenda, chi l'ha vista, chi la deve andare a vedere, quindi insomma non stiamo a ripercorrerla, ma c'è, come dire, un passaggio quasi all'inizio del film in cui il corpo umano entra nel corpo del Navi, quindi dei veri protagonisti di questa grande avventura, e in cui, come dicevo all'inizio, in qualche modo ci si perde in questo mondo tra il reale e il digitale. Uno degli elementi che colpisce è il fatto che tutto avvenga in una sorta di continuum. Noi eravamo abituati, in tutto sommato tutti noi, dai vecchi film agli effetti speciali che in qualche modo irrompono nella scena. Qui sembra che tutto si mischi in una realtà in realtà continua. Ecco, Sebastian Silvan, qui ha a che fare, diciamo, con la capacità artistica, con quella che lei più volte ha definito la potenza di calcolo. Che cos'è che rende questa pellicola, queste tecnologie oggi così avanzate? Sicuramente c'è un elemento di rivoluzione nel processo di filmmaking, cioè di creazione di un film che Cameron ha portato. Diciamo che molte delle tecniche, questo è stato chiamato un film rivoluzionario, lo è da un certo punto di vista, come lei faceva notare, dal punto di vista narrativo, ma anche, se vogliamo, dal punto di vista delle tecnologie che sono state create per realizzarlo. Cameron ha insistito perché gli attori, la performance degli attori venisse non solo catturata ma anche riprodotta e portata sullo schermo pienamente, in modo che fossero veramente gli attori a guidare i personaggi. La tecnologia per realizzarlo non era praticabile prima, è stata, diciamo, realizzata ad hoc e ha permesso durante le riprese a Cameron di vedere non solo i personaggi, diciamo una versione semplificata, ma dei personaggi sul set mentre gli attori si muovevano. Lui vedeva su uno schermo i personaggi che replicavano questi movimenti, non solo il corpo dei personaggi ma anche le espressioni facciali di questi personaggi venivano realizzate, diciamo analizzate e riportate in tempo reale su i personaggi che lui vedeva sullo schermo, e quindi poteva giudicare e poteva dirigere gli attori e avere controllo poi totale su quello che era l'ambiente. Questo è solo un esempio di quelle che sono state le tecnologie realizzate per questo film. Un altro che è, diciamo, stacca o presenta un livello di discontinuità rispetto all'evoluzione precedente è la complessità degli ambienti e dell'illuminazione che non ha precedenti nella storia degli effetti speciali. Cioè gli ambienti, in particolare questa formidabile foresta che domina l'intero film? Sì, certamente la foresta ha un livello di complessità per cui ogni singola foglia in certi casi di ogni albero è stata modellata in appunto software di modellazione tridimensionale ed è stata poi illuminata e gestita all'interno di questi ambienti per dare un senso di verosimilitudine, di realtà che non era mai stato visto prima. Credo che questo sia abbastanza accettato da chiunque abbia visto il film. Sebastian Silva, lo ricordo, è direttore della ricerca e sviluppo appunto di WITA. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque a parlare della grande trasformazione del mercato cinematografico digitale. Ritorniamo in Nuova Zelanda, dove questa sera c'è con noi Sebastian Silvan, che è il direttore della ricerca e sviluppo di WETA, la società, appunto, la grande società che si è occupata degli effetti speciali, di gran parte degli effetti speciali di questo film, e non solamente, abbiamo citato tra gli altri la saga del Signore degli Anelli. Ecco, Silvan, fare questo tipo di film costa molto, ma rende in questo caso, rende sempre. Come sta cambiando il mercato cinematografico rispetto appunto all'irruzione, di fatto al dominio degli effetti speciali? Il mercato cinematografico, diciamo, guida un pochettino la predominanza degli effetti speciali. Se si guardano alle liste dei film che hanno fatto un maggiore successo al box office, cioè che hanno venduto più biglietti, tutti i primi 20, se non di più, sono stati realizzati non solo negli ultimi 10 anni, forse ad esclusione di Star Wars, e tutti sono film che sono grosse franchise oppure che hanno grossi effetti speciali o film di animazione. Per cui c'è una forte, diciamo, preferenza da parte del pubblico per immagini che siano spettacolari. Credo che tra l'altro questa sia proprio un po' la richiesta e che viene dimostrata appunto dal box office. Questo ovviamente cambia quello che è l'approccio da parte degli studi e quelle che sono le pellicole che vengono poi prodotte e realizzate. Ci sono ovviamente altri mercati di nicchia, ma diciamo che quelli che occupano le prime posizioni in termini di box office sono sempre produzioni che hanno una forte componente digitale. Si parla di produzioni da milioni di dollari. È possibile fare del cinema con effetti speciali senza essere una major, senza investire centinaia di milioni di dollari? Credo di sì, e c'è stata una recente dimostrazione di questo in un film che è stato realizzato con un budget relativamente modesto, circa 30 milioni di dollari, nel quale WETA ha partecipato, che è District 9, è un film prodotto da Peter Jackson e che ha registrato incassi molto forti, ha anche questo una componente di effetti speciali, nonostante siano stati fatti diciamo un pochettino più, con mezzi un pochettino più limitati che non quelli che aveva a disposizione Cameron per Avatar, ma sicuramente le tecnologie sviluppate per film come Avatar o come altri film di A-list, diciamo, a livello di effetti, diventano poi molto più comuni, diventano ed entrano anche nell'arsenale o nella palette di strumenti che ha a disposizione un regista. È anche molto più comune per registi giovani di crescere con queste tecnologie e avere a disposizione la possibilità di previsualizzare o di rendere quello che saranno le scelte o alcune delle scelte creative nel fare il film in precedenza e quindi risparmiare su quelli che sono poi i costi di produzione. Intorno alla capitale della Nuova Zelanda, Wellington, che peraltro non è neanche la maggiore città del paese, perché c'è sicuramente, credo che non si offendano i suoi concittadini, a Auckland più movimento, è stato costruito un formidabile distretto del digitale. Lei arriva dall'Italia via Studios, via Los Angeles, se non sbaglio. Sarebbe possibile costruire distretti analoghi anche nel nostro paese? Io ho ancora la speranza di sì, perché un giorno mi piacerebbe tornare in Italia. Ci sono stati alcuni tentativi, uno dei quali forse il più ambizioso mi ha visto parte. Diciamo che c'è forse la necessità, se si guardano a quelle che sono state i casi di successo nel mondo, c'è stato un forte drive da parte di persone che appunto avendo guadagnato un successo, un riconoscimento più o meno internazionale, hanno poi portato o cercato di trasportare questo nei loro paesi di origine. Diciamo che forse se ci fosse un regista che ha una forte o un'entratura dentro agli studi e che può portare, quindi, o può esigere di portare dei progetti in Italia, questo potrebbe sicuramente favorire le cose. Scommettevo molto su Muccino, che ha avuto un paio di occasioni per lavorare a Hollywood. Non credo che questo sia comunque indispensabile. Si possono fare produzioni e credo che una delle cose principali sia mantenere quella che è l'identità della produzione italiana e della produzione culturale italiana, nonostante ci voglia anche un mercato un po' più ampio, per cui magari aggregarla con altre produzioni europee che hanno sicuramente una sensibilità e una idea comune, molto più comune di quanto non possa essere il mercato internazionale. La sensibilità italiana è forse un pochettino più difficile, ma deve sicuramente aspirare ad avere un respiro internazionale, credo. Jake è molto semplice. Voglio che tu li conosca da vicino, voglio che ti guadagni la loro fiducia. Ecco, ancora qualche momento che evoca naturalmente la pellicola, la fase della battaglia in cui il fumetto si fonde al fantasy. Ci sono citazioni sicuramente molto belle, molto suggestive in questa pellicola che, e qui ci ricolleghiamo al discorso che stava facendo Sebastian Silvan con noi questa sera, pellicola che ottiene successo nelle maggiori capitali del mondo. Vi ho detto in apertura che in fondo i weekend, i fine settimana in Francia, in Cina, in Russia, Germania, Gran Bretagna, in Italia sono stati sostanzialmente simili, naturalmente nelle grandi città. Credo che in realtà si tratti proprio di generare e di creare quello che è un messaggio universale, e questa è parte del successo. Credo che ci siano film che fanno pensare magari un po' di più e che sono che non abbiano anche un successo in questo senso. Io credo che parte anche del successo di Avatar in questo caso sia la costruzione di un mondo, cioè che sicuramente ci sia un elemento narrativo e di storytelling molto, molto forte, molto rilevante e con il quale è facile connettere. Dall'altra parte credo che ci sia anche la costruzione di un mondo e di un sistema, diciamo, che è del tutto ignoto e attraente. Mi chiedevo se qualche mese fa, ancora prima che il film uscisse, se avrebbe potuto sorpassare Titanic, credo che la mia personale risposta fosse che Titanic aveva un po' un messaggio per chiunque, un po' per tutte le fasce demografiche. Avatar magari è un po' meno completo in quella direzione, ma sicuramente crea talmente tanto excitement per questo mondo nuovo che ci sarà moltissima gente, come effettivamente credo ci sia stata, che va a vederlo più volte, perché è un mondo talmente ricco e talmente completo, talmente nuovo, nel quale credo che la genialità di Cameron in questo caso sia stata anche di usare tutte le tecnologie per farci sentire in questo modo, un mondo, dicevo, nel quale noi siamo gli alieni, per cui andarlo a scoprire, andarlo a rivedere, andare a capire come le cose sono state fatte, credo che sia una grossa componente del successo di questo film. Sebastian Silvan, in conclusione, Avatar è dunque una nuova frontiera anche nell'utilizzo di queste tecnologie, nelle possibilità offerte a un regista. Che cosa c'è all'orizzonte? Su che cosa state lavorando, voi che lavorate appunto in, tra virgolette, prima linea in questo settore? Sicuramente Avatar, appunto come dicevamo prima, è stato chiamato rivoluzionario ed è così perché rivoluziona i meccanismi e i metodi con cui i film sono fatti. Cameron ha avuto la possibilità di controllare tutti i pezzi della produzione di Avatar, mentre nel girare un film tradizionale molte cose devono succedere allo stesso momento, devono andare all'unisono e non possono essere individualmente controllate, per cui diciamo che ogni fotogramma di Avatar è esattamente o quasi esattamente come Cameron lo voleva. La tendenza in questo senso credo che continuerà a ripetersi e ad andare a poter servire quelle che sono le fantasie in maniera sempre più facile, sempre più semplificata, diciamo, dove la tecnologia serve sempre più ad essere strumento di comunicazione e magari essere più accessibile e più diretta. Ci sono molte tecnologie che ovviamente sulle quali stiamo ovviamente indagando e che mirano al fotorealismo, ma anche e soprattutto all'avere gli artisti in grado di produrre sempre più iterazioni e possibilità di visualizzazione o di creazione di mondi fantastici o reali. Insomma, attendiamo ancora nuove sorprese anche dalla Nuova Zelanda. Ce ne saranno sicuramente. Grazie mille al nostro ospite. Lo ricordo, Sebastian Silvan è il direttore della ricerca e sviluppo di Weta, quindi la società che ha realizzato gran parte degli effetti speciali di Avatar. Siamo in conclusione, ringrazio anche Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che con radio24.it potete sentire e risentire questa e tutte le trasmissioni di Radio 24 e vi lascio augurandovi un ottimo fine settimana a tutti.